uno positivo, asintomatico, cioè non hai niente, sei sano e tutto, ti mettono in quarantena, tutta la famiglia ti mettono. E se come me hai la moglie che è insegnante, tu sei un lavoratore autonomo, ti stai a casa e non guadagni niente, ok? Non incassi niente. Caro Spezia, buongiorno. Se tu vai sui social leggerai e vedrai che tante ragazze, anche 14 anni, 13 anni, 15, 16, eccetera, ti chiedono buoni Amazon, buoni Netflix per farsi vedere, mandare fotografie di nudo, eccetera. Sono tutte ragazze che sono insoddisfatte. C'è qualcuno che mi sa spiegare con me che si sforzano tanto a trovare un vaccino e non pensano a mettere a punto certe medicine che, se prese per tempo, non ti fanno ammalare gravemente? Ma no, guardi, caro ascoltatore, la ricerca prosegue in entrambe le direzioni, però il vaccino è la vera soluzione per evitare la recrudescenza dei Covid, cioè per evitare il fatto che prima ancora di arrivare alle cure non ti ammali. Sulle ragazzine che chiedono buoni Amazon e cose simili, mandando le foto, oh, occhio amico mio, che a volte sono fake, sono profili falsi quelli là, eh? Ne siamo pieni. Quando su Facebook vi manda la richiesta di amicizia una donna bellissima che non avete mai conosciuto con un nome e cognome strano, generalmente non è una persona vera, sappiatelo, sappiatelo. Io a volte mi stupisco quando vedo che mi manda una richiesta di amicizia un profilo di questo genere e abbiamo degli amici in comune, quindi c'è qualcuno, persone reali, che questa cosa non l'ha capita. Sono false. Siete bellissimi, ma non cercano voi, sono profili falsi. Sulla questione più seriamente del test sierologico che ci diceva l'ascoltatore, sì, lo capisco benissimo, cioè capisco perfettamente la preoccupazione. Capisco perfettamente la preoccupazione, però su questa cosa una soluzione va trovata. Per esempio, oggi sul Sole 24 Ore, Giovanni Brugnoli, che straltro sarà nostro ospite oggi, vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano, parla della necessità di tamponi obbligatori per gli insegnanti. Una soluzione a questa cosa va trovata. La seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è giovedì 3 settembre. Al microfono sempre Simone Spezia, e i titoli dei giornali di oggi sono dedicati molto alla vicenda, all'apertura, al fatto che Silvio Berlusconi è positivo. Forza Silvio, scrive il giornale. Berlusconi positivo, sto bene, titola il Corriere della Sera. Silvio e figli hanno il virus, titola Libero, che, usando un'espressione cara all'ex presidente del Consiglio, titola sopra, c'è scritto Cribbio, che sfortuna. Berlusconi al Covid, continua la battaglia, il titolo della Stampa. Berlusconi colpito dal virus, non mi fermerà, è il titolo invece della Repubblica. Dedicato al referendum invece, il titolo del Fatto Quotidiano: questi votano no, con le foto di Cirino Pomicino, Bobo Craxi, Pier Ferdinando Casini, Luciano Violante. Il Messaggero: Covid, il Sud soffrirà di più. Il Quotidiano Nazionale: sondaggio, in bilico solo due regioni. Il Manifesto: un ruolo a chi lavora, è dedicato alla scuola. La scuola riaprirà forse in sicurezza, ma si affiderà a 200.000 docenti precari, un terzo dei quali con oltre 3 anni di servizio. È il vero scandalo dell'istruzione in Italia, denunciato da ben 35 sigle. Preghiera e sostegno col Libano nel cuore, il titolo di Avvenire, mentre il Sole 24 Ore si dedica ad edilizia e appalti, la mappa delle novità. E c'è un'analisi di Giorgio Santilli che si intitola Un'occasione persa. Di questo poi parleremo più avanti con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, nel consueto appuntamento del giovedì. Rassegna stampa che si articolerà su vari fronti. Parleremo ovviamente della vicenda di Silvio Berlusconi. Naturalmente verremo alla politica e a questi giochi di palazzo intorno ai servizi segreti, che forse ci raccontano qualcosa di più sullo stato della maggioranza. E però, mentre la politica è presa tra questi giochi di palazzo, com'è messo il paese? Iniziamo proprio da qua. E iniziamo da un pezzo di Nino Amadore sul Sole 24 Ore. Inizia in prima pagina e prosegue a pagina 10. Che cosa ci racconta questo pezzo di Nino Amadore? Ci racconta che in Sicilia l'assessorato all'ambiente, o meglio la commissione che si occupa di valutare una serie di progetti, in particolare i progetti dei cavatori, del settore marmi e via dicendo, blocca al momento progetti per 2 miliardi, numero 2 miliardi di progetti bloccati in una Sicilia che, insomma, in termini di condizioni economiche non è esattamente la regione messa meglio di questo paese. E il racconto di Nino Amadore nel dossier messo a punto da una serie di associazioni, che sono appunto quelle che hanno a che fare con i cavatori, i marmi e via dicendo, in questo dossier ci sono degli elementi che hanno dell'incredibile. C'è la richiesta bloccata perché l'emissione di polveri potrebbe comportare alterazioni respiratorie a carico dei lepidotteri, che sono le farfalle. Attenzione, le polveri potrebbero comportare problemi di respirazione per le farfalle. C'è la richiesta di proroga della coltivazione di una cava di pietra che è stata respinta. Perché? Perché manca l'area per il deposito degli scarti, ma quel tipo di attività non comporta scarti. Ancora, viene richiesto un piano di monitoraggio ante operam, cioè prima che venga realizzata la cava, nonostante la cava esista già da decenni, e la richiesta è relativa a un progetto di rinnovo per il completamento di un piano di coltivazione, così si chiama, non è che si mettono i frutti nella terra e esce fuori la i semi nella terra e esce fuori la pietra, si chiama così la coltivazione della cava. Il completamento di un piano di coltivazione originariamente già approvato. È il quadro che emerge appunto dall'attività della Commissione Tecnica Specialistica dell'Assessorato Regionale all'Ambiente e Territorio della Regione Siciliana, una commissione che esprime pareri sulle autorizzazioni uniche ambientali e sulle verifiche di assoggettabilità. Sono 900 le pratiche bloccate, 900 le pratiche bloccate in un paese che ha disperato bisogno di investimenti dall'Assessorato Regionale dell'Ambiente e Territorio per un totale di oltre 2 miliardi di investimenti. Si va dal pannello fotovoltaico alla fungaia, eh? Cioè, si può bloccare una fungaia all'assessorato all'ambiente a qualsiasi impianto di natura industriale oltre alle numerose opere pubbliche. È quello che risulta dalla ricerca certosina fatta negli ultimi mesi da un gruppo di lavoro sul sito della regione siciliana e non solo. 140 le pratiche riguardano le imprese del settore marmi e affini. Gli investimenti bloccati si aggirano in questo caso intorno sui 200 milioni di euro. Il problema delle polveri per le alterazioni respiratorie delle farfalle. E se vogliamo allargare ancora di più il discorso, c'è un tema di come affrontare e come mettere insieme i progetti di investimento quando arriveranno i fondi europei nel 2021. Su questo fronte vi voglio segnalare un sontuoso, direi, editoriale di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, il quale mette in evidenza quelli che sono i problemi emersi in questi mesi, dalla questione delle scuole, tanto degli edifici quanto della sistema di reclutamento degli insegnanti, sul quale tra l'altro arriveremo tra un attimo, perché anche su questo ne è emersa qualsiasi cosa. C'è tutto il tema della cassa integrazione, di come funzionano gli ammortizzatori sociali, c'è il grande tema del lavoro. E però, ci dice Giavazzi, se scorrete l'elenco degli oltre 600 progetti che i singoli ministeri hanno sottoposto al governo per i finanziamenti del Recovery Fund, ossia dei fondi europei in arrivo nel 2021, troverete solo cappotti termici, alta velocità e autostrade, qualche investimento industriale proposto dalle aziende, dall'ILVA alla Fincantieri, magari interventi perfino utili, ma di sicuro niente riforme, né nella scuola, né nell'università, né, ci mancherebbe, nel mercato del lavoro. E invece, basterebbe partire dai capitoli del programma nazionale di riforma, legato dal ministro dell'economia al DEF 2020, politiche fiscali a sostegno della crescita, mercato del lavoro, scuola e competenze, produttività, competitività, giustizia. Oppure dal troppo presto dimenticato documento Colao. Così Giavazzi sul Corriere della Sera. Il sistema del reclutamento degli insegnanti. Ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Il fatto che, certo, da una parte c'è il fatto che ci troviamo ad ogni settembre, e in questo settembre in particolare, con una carenza di insegnanti, e dall'altra parte c'è il fatto di come avviene questo sistema di reclutamento. Come ben sapete, ci sono le graduatorie del Ministero. Graduatorie del Ministero che stanno suscitando molte polemiche tra gli insegnanti e tra i sindacati di insegnanti, perché anche qua sono usciti all'interno una serie di strafalcioni incredibili. Ne parliamo tra un attimo. Non è il problema della punturina, è il problema che se ti trovano positivo scatena tutta una procedura che ti mette in mezzo il posto di lavoro precario, i familiari in quarantena. Cioè, l'Italia ci mette poco a tirar fuori le leggi, ma dopo a tutelare le persone con queste leggi è tutta un'altra cosa. Ma il punto è chiaro, da una parte c'è questo problema, dall'altra parte lo Stato, le regioni devono assicurare rapidità in questi test. Come si diceva il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina, ne parlavamo poco fa, riporta che solamente il 10% dei docenti e del personale ATA in Campania ha fatto il test sierologico, e ormai ci avviamo verso l'inizio delle elezioni. A proposito di questo, a proposito di inizio delle elezioni, c'è tutta questa vicenda delle graduatorie digitalizzate dei precari, che sono state rese pubbliche nelle scorse ore. La ministra Lucia Azzolina. Cosa ne emerge? Ci racconta Libero a pagina 9 che, con Tobia De Stefano, che ci sono candidati che si ritrovano di ruolo su una cattedra di francese senza averlo mai studiato, il francese. Altri che hanno riportato punteggi equivalenti a centinaia di anni di servizio. E altri ancora, ai quali sono stati riconosciuti 15 anni di insegnamento di sostegno, ma che in realtà non hanno mai avuto contatti con un disabile. Non solo, si sono visti punteggi negativi fino a meno 60, candidati scomparsi dagli elenchi, precari che non hanno mai messo piede in aula, da docenti che si ritrovano in prima fascia, ed esiste perfino un ragazzo poco più che ventenne che ha un'ottantina di punti solo in titoli, equivalgono a un paio di lauree e a 3 dottorati. Così sembra difficile poter cominciare con queste graduatorie, e la ministra ha comunque assicurato che la cosa verrà risolta. Un altro tema che troviamo sui giornali sotto varie forme è quello dell'immigrazione, perché, come vi abbiamo raccontato, come avete sentito anche in GR24, ieri il Presidente del Consiglio ha incontrato il Presidente della Regione Siciliana Musumeci, assicurando che verrà votato al più presto l'hotspot di Lampedusa. Su questo fronte vi vorrei segnalare due interviste. La prima è quella che realizza Giusy Fasano a pagina 20 del Corriere della Sera con il professor Cristoforo Pomara, chi è? Dirige l'Istituto di Medicina Legale di Catania ed è il responsabile della task force della regione per valutare condizioni, rischi e soluzioni per i 40 fra hotspot e centri di accoglienza dell'isola, della Sicilia dunque. Dice il professor Cristoforo Pomara, che non è uno facile ad essere impressionabile, non è un impressionabile, no? È l'autore di un trattato di tecniche di autopsia forense studiato in tutto il mondo. Sono scioccato, dice, dopo la visita all'hotspot di Lampedusa. Io faccio il medico legale, ne ho viste di situazioni forti, diciamo così, ma quello che ho visto in questi giorni mi ha colpito umanamente, oltre che come medico. Pensare di tenere assieme migliaia di persone, come è stato fatto finora a Lampedusa, e chiamare questo accoglienza, significa che abbiamo fallito. Tra le altre cose che racconta, con le 1200 persone che c'erano al momento del sopralluogo si violavano tutte le regole di prevenzione delle patologie diffuse. Non solo Covid, epatite, HIV, scabbia, tubercolosi. Ho immaginato un incendio, qualcosa che genera una fuga di massa. Secondo lei, se premono tutti verso un'uscita, che succede? Però, dice Giusy Fasano, il premier Conte assicura che entro venerdì arriveranno due grandi navi per svuotare il centro. Meglio tardi che mai, benissimo comunque, e racconta ancora, ho visto un posto inadatto ad accogliere qualcuno, nelle condizioni nelle quali la struttura, quel luogo è già inadatto per i 200, che sono il numero regolare. L'altra intervista è quella che il Foglio realizza con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. È un'intervista lunga realizzata dal direttore Claudio Cerasa, dove sono dentro tanti elementi, anche il tema della modifica dei decreti sicurezza, sulla quale, come sappiamo, c'è un'estrema cautela anche politica in questa fase. E però il punto centrale è già nel titolo dell'intervista. Cara Europa, niente recovery fund ai paesi che non collaborano sui migranti. Il tema è proprio questo, cioè propone di fatto la Morgese una sanzione economica a tutti quei paesi che si rifiutano di accogliere i migranti. La redistribuzione diventi obbligatoria, non volontaria. E interviene anche sul MES, sul Fondo Salva Stati. Giusto chiederlo, è anche un tema di sicurezza. Sui decreti sicurezza fa sapere che il testo è pronto. Vedremo poi quando la maggioranza riuscirà a lavorarci. Ancora un paio di punti, direi la vicenda di Silvio Berlusconi sicuramente, il quotidiano forse più interessante, più stuzzicante che potete trovare su questo fronte è La Stampa, pagina 3, con da una parte l'intervista a Flavio Briatore che dice combatte come un toro, non l'ho contagiato io, e lo intervista Nicola Pinna, ma forse il pezzo più interessante è quello di Flavia Perina, sempre a pagina 3 appunto della Stampa, nel quale fa con questa vicenda del Covid una sorta di connessione politica. Perché dice questo? Dice: Berlusconi ha sostanzialmente sempre usato il suo corpo anche in una funzione politica. Se ricordate, c'era un bellissimo libro di Marco Belpoliti che trattava esattamente di questo, che si chiamava Il corpo del capo. L'elenco è lunghissimo, dice Perina. Il cancro del 2017 rivelato 3 anni dopo, lo svenimento durante un comizio a Montecatini, la celebre uveite nel 2013 e nel 2014, lo ricorderete, con gli occhiali scuri, nel 2016 un intervento molto serio al cuore, nel 2019 l'operazione per un'occlusione intestinale, la caduta a Zagabria con ricovero d'urgenza a Milano, in mezzo polsi ingessati, ferite alla gamba, giocando a calcetto, sospette fratture. Si dovrà ammettere, dice, che l'aperto riconoscimento dei suoi malanni, l'accettazione senza infingimenti del ruolo del presidente malato, è stato anche, forse soprattutto, una forma di normalizzazione della sua vita, altrimenti esibita come straordinario, un modo di dire alle persone: mi ammalo, sono come voi. E così, con questa vicenda del Covid, ci sono due effetti collaterali importanti che non possono essere nascosti. Da un lato spiazza le indulgenze negazioniste del mondo leghista e senza bisogno di parole assesta una stoccata alla narrazione no mask di Salvini. Dall'altro leva Berlusconi dall'impiccio della presenza fisica in una doppia campagna elettorale in Campania, a fianco del suo Stefano Caldoro e per il referendum. Referendum che vede Forza Italia divisa, confusa e forse perdente. Mi pare uno spunto interessante. Il fronte politico vero e proprio invece ci racconta di cosa? Ci racconta di questa fronda nel Movimento 5 Stelle sui vertici degli 007. La vicenda l'abbiamo raccontata lungamente ieri ed è questo voto di questo emendamento presentato da una serie di parlamentari del Movimento 5 Stelle per bloccare la possibilità per il Presidente del Consiglio Conte di prorogare appunto i vertici dei servizi segreti. La cronaca qua, possiamo pescare quella di Manuela Perrone sul Sole 24 Ore a pagina 7, che ci racconta un po' delle tensioni che attraversano i 5 Stelle. In 28 non votano la fiducia al decreto Covid, esattamente per questo motivo. E parte però il pezzo di Emanuela Perrone con un altro addio clamoroso, quello della siciliana Piera Aiello, vi ricordate, ne abbiamo parlato lungamente, testimone di giustizia, eletta a Montecitorio con il Movimento 5 Stelle nel 2018. Quasi il 52% dei voti nel collegio di Marsala. È una faglia preoccupante appunto per il governo e per il premier Giuseppe Conte, quella dei 28 deputati pentastellati che non hanno preso parte al voto di fiducia alla Camera sul decreto Covid. Tanto che la verità si spinge a parlare di un colpo di mano sui servizi che fa tremare il trono di Conte. Persino nella maggioranza insorgono contro la norma che consente al premier di blindare i suoi uomini, anche se dovesse lasciare il governo, ma lui la fa passare imponendo la fiducia. E Mattarella, al solito, tace, molto duro su questo, l'editoriale del direttore della Verità Maurizio Belpietro, il quale inizia dicendo che al momento non sappiamo se il governo Conte durerà una settimana o un anno, e appunto dice su questo tema c'è il silenzio di Mattarella. L'analisi invece è di Massimo Franco sul Corriere della Sera, il quale ci parla di quelli che sono gli eccessi tattici di un'alleanza fragile e nervosa, e parla appunto di un eccesso di ansia e di nervosismo che va oltre le previsioni e chiama in causa le contraddizioni e dunque la fragilità di un'alleanza incompiuta, forse a questo punto velleitaria, tra Movimento 5 Stelle e PD. Un grillismo così lacerato dalla perdita di identità e di leadership che continua a scaricare sul governo le sue convulsioni interne. Un PD in tensione per la consapevolezza di aver scelto una sponda scivolosa e inaffidabile, con un interlocutore incapace di garantire non solo gli accordi con gli altri, ma la sua stessa tenuta interna, e un premier che oscilla tra protagonismo e sindrome dello struzzo, non appena si profilano difficoltà tali da insidiare la sua popolarità e la sua permanenza a Palazzo Chigi. Sono l'emblema, queste cose, di una maggioranza che non può cadere e in parallelo mostra crepe così vistose da regalare argomenti a opposizioni che pure non brillano né per lucidità politica né per strategie alternative. Questa la lettura di Massimo Franco che troviamo sul Corriere della Sera. L'ultima cosa sulla quale vi voglio portare prima di andare alla pausa è un argomento di Esteri, che forse è l'argomento più importante di Esteri di queste ore, ed è quello che succede in merito alla vicenda di Alexei Navalny. Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, che è stato avvelenato con il Novichok. Il Novichok è un gas nervino sviluppato in Russia per scopi militari, lo stesso con il quale fu colpito l'ex agente segreto russo Sergei Skripal. Vi ricordate, ne abbiamo parlato moltissimo di quella vicenda a Londra. E qua può essere interessante leggere l'analisi di Enrico Franceschini sulla Repubblica a pagina 11, che innanzitutto ci racconta che è impossibile ignorare una sensazione di déjà vu nell'annuncio che Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok, un gas nervino sviluppato in Russia per scopi militari. Ma il tentato omicidio di Navalny, come l'ha definito ieri Angela Merkel, rappresenta qualcosa di diverso e di più grave. Il caso vuole che la cancelliera tedesca, che ieri ha chiesto spiegazioni a Putin, abbia in questo semestre la presidenza di turno dell'Unione Europea. Con la richiesta immediata di spiegazioni, il leader del più importante paese del continente si pone alla guida dell'Europa per far capire a Mosca che questa crisi non verrà facilmente archiviata. Quindi occhio alle conseguenze di questa vicenda, il traffico. Mattino. Ed eccoci, è giovedì, torna l'appuntamento col nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci qua. Eccomi qui, bentornato a tutti. Beh, anche a te e anche a me, tutto sommato, perché è il nostro primo appuntamento dopo la pausa estiva. Il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata a edilizia, ai appalti, questa mappa delle novità, sono state approvate regole più agili per le gare, crescono i vincoli nei centri storici della città, è stato dato il via libera in commissione al Senato. Domani arriva la fiducia in aula sul provvedimento, tutti i dettagli li trovate appunto a pagina 3, a pagina 3 del Sole 24 Ore con Giorgio Santilli che ci racconta un po' tutto, prorogate al 2021 le procedure veloci, la rigenerazione urbana fuori dalle città storiche, la digitalizzazione, più accessibili siti web delle imprese, ci sono molti elementi e però scrive il nostro Giorgio Santilli che è un po' un'occasione persa questo decreto legge semplificazioni, Fabio. E questa è la posizione del giornale, Santilli lo spiega bene. Questo è il paese delle complicazioni, finalmente è arrivato un decreto semplificazioni, però bisognerebbe forse avere un po' più di coraggio, ci sono lacci e lacciuoli che sono insopportabili nei tempi normali, figuriamoci adesso che il paese dovrebbe trovare una spinta forte per uscire dalle difficoltà della pandemia. La crisi sanitaria per la verità ancora non è finita, però il paese ha dimostrato a partire da giugno di fare appello alle sue forze migliori per uscire dall'impassa, per ritrovare la strada dello sviluppo che, ricordiamolo perché questo è molto importante, è l'unica possibilità che abbiamo per evitare la trappola del debito. Il debito pubblico italiano è un problema per questo paese, è un problema, non è nuovo, lo è da tempo, ma certamente si è molto aggravato a seguito delle misure prese per la pandemia. L'unica possibilità che abbiamo di salvare la ghirba è quella di ritrovare la strada dello sviluppo, e per lo sviluppo occorre spassare via lacci e lacciuoli. Spazzare via la burocrazia, ma anche, Fabio, intervenire sul fisco. Ne ha parlato ieri il ministro Gualtieri, tornando a ribadire la volontà di tagliare il cosiddetto cuneo fiscale, ossia le tasse sul lavoro, con l'obiettivo da una parte di aumentare salari e stipendi, dall'altro anche di dare un po' di liquidità alle imprese, il tutto corredato dall'assegno unico per sostenere la famiglia, una riforma che deve autofinanziarsi con la riduzione delle detrazioni e la lotta all'evasione. Siamo a pagina 2, questo è l'altro grande capitolo, la riforma fiscale è l'altro grande capitolo insieme all'utilizzo dei soldi del recovery fund, è l'altro grande capitolo sul piatto del governo. Ricordiamocelo, questo è un paese soffocato dalla burocrazia, ma anche soffocato, per chi le paga, dalle troppe tasse, troppe, è arrivato il momento di tagliarle e di farle pagare a tutti. E le dichiarazioni di intenti del ministro Gualtieri sono nobili, tagliare il cuneo fiscale, abbassare le tasse sul lavoro, e io aggiungo anche abbassare le tasse su tutte le tasse, perché ripeto, questo il problema di questo paese è che chi paga le tasse ne paga davvero troppe. E l'altro problema corrispondente è che c'è tanta gente che non le paga. E questo è ora di finirla, perché la situazione per chi paga le tasse ormai è diventata insopportabile. Non si può cominciare a lavorare per se stessi dal 1° luglio di ogni anno. È proprio sbagliato. È qualche tempo ormai che ce ne occupiamo della vicenda dei lavoratori agricoli, Fabio. Prima con la questione della regolarizzazione, che di fatto non ha funzionato solamente in parte. E adesso con i voucher, i nuovi voucher, a questo il Sole 24 Ore oggi dedica la fotonotizia. E anche qua il tema è sempre quello della burocrazia. Troppa burocrazia frena i nuovi voucher, c'è l'allarme per la vendemmia, non decolla il contratto di prestazione occasionale e le imprese dicono, insomma, ci sono troppe adempimenti, va modificato. Vedo il paese fatica a fare delle norme che siano facilmente attuabili, delle norme senza procedure complesse. Il problema è il solito, almeno per questo governo e non soltanto per questo governo, le dichiarazioni di intenti sono nobili, però poi quando si tratta di passare dalle parole ai fatti casca l'asino. E nel caso dei voucher l'asino è cascato e sta facendo un grande botto, perché la legge non funziona e di conseguenza tutti i problemi rimangono irrisolti e direi aggravati. E anche questo non possiamo permetterci. Io penso che se il governo ascoltasse un po' di più il mondo delle imprese, forse si riuscirebbero a evitare questi flop davvero clamorosi. Adesso c'è la vendemmia è un anno difficile, i problemi sono tanti, rischiamo di perdere ancora una volta delle grandi occasioni e soprattutto ancora una volta è cascato il somaro quando si è trattato di passare dalle parole ai fatti. Sì, a proposito di burocrazia, vabbè, l'abbiamo letto prima agli ascoltatori il pezzo di Nino Amadore, meraviglioso, con i progetti bloccati all'assessorato all'ambiente della Regione Sicilia, tra questi uno per l'emissione di polveri che potrebbe comportare alterazioni respiratorie a carico delle farfalle. A proposito di burocrazia, Fabio, vorrei chiudere con una nota dall'estero e che ha a che fare con, parliamo tantissimo nella nostra campagna elettorale, quella per le regionali, ma ce n'è una più importante a livello mondiale, che è la campagna elettorale per le presidenziali americane. Si voterà in novembre e qua abbiamo un pezzo di Riccardo Barlam oggi che ci racconta qual è la strategia di Trump, un tentativo di coprire la crisi, che è una crisi, quasi una crisi da debito, no? Sì, la grande novità è che per la prima volta dal 1946 il debito americano si avvia a superare il prodotto interno lordo. Benvenuti Stati Uniti nel club dei paesi che hanno un debito fuori controllo. C'è il Giappone, c'è l'Italia, c'è la Grecia e ormai ci sono pure gli Stati Uniti. Il problema per Trump è un problema. Trump ha due difficoltà, quelle della pandemia che ha gestito con i piedi e quello del debito pubblico e dell'economia. Però non dire gatto finché non è nel sacco. Io sono tra quelli che ritiene che Trump abbia ancora delle chance importanti per essere rieletto, e quindi chi pensa vedremo. Che il vantaggio del candidato democratico sia incolmabile, io credo che si sbagli di grosso. Partita più aperta di quanto non si immaginasse solo qualche settimana fa. Grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buona giornata, a giovedì prossimo. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo tra un attimo, consueta chiacchierata con Paolo Mieli, e poi parleremo, come vi dicevo, di chi paga il prezzo di questa crisi, della crisi da Covid. Prevalentemente i giovani, in termini di lavoro e in termini ovviamente di scuola, di università, di vita sociale. Le vostre voci al 349-238-6666 con gli WhatsApp audio e l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta, dire la vostra, parlare anche con Paolo Mieli. A tra poco.